Mix 24 di Giovanni Minoli. Una condanna a 3 anni di reclusione per Guido Bertolaso. E quanto chiede il procuratore generale dell'Aquila? Secondo l'accusa, avrebbe sottovalutato il pericolo del terremoto che causò la morte di 309 persone. E invece assolto per non aver commesso il fatto. Con questa sentenza il Tribunale dell'Aquila ha messo la parola fine al processo Grandi Rischi Bis a carico dell'ex capo della Protezione Civile Guido Bertolaso. Ecco, dottor Bertolaso, assolto dal Tribunale di Perugia per non aver commesso il fatto. Ma esattamente qual era il fatto? Il fatto era una famosa telefonata che è stata riportata da diversi quotidiani che ormai ha sentito tutta Italia, intercettata nell'ambito di un'altra vicenda giudiziaria nella quale io reprimevo violentemente la regione Abruzzo che il 30 di marzo del 2009 aveva emanato, dopo l'ennesimo sciame sismico, un comunicato stampa ufficiale dicendo che da quel momento non ci sarebbero stati più scosse di terremoto all'Aquila. Allora ovviamente io chiamai la regione Abruzzo, l'assessore alla protezione civile di quella regione, e gli feci un cazziatone violentissimo spiegandogli che i terremoti non si possono prevedere e che dire che il terremoto non ci sarebbe più stato era una sciocchezza cosmica. Insomma, quindi, e invece lei è stato accusato di non averlo previsto il terremoto, è così? Di averlo sottovalutato. Sottovalutato. L'abbiamo talmente sottovalutato che mezz'ora dopo le 3:36 di quella giornata, il 3:32 di quella terribile mattinata, la protezione civile era già tutta allertata e 24 ore dopo la scossa di terremoto oltre 70.000 abruzzesi erano messi sotto le tende, accuditi, tutte le persone erano... Vabbè, e quindi insomma, e quindi comunque assolto in quel contesto caldo, perché lei è stato assolto all'Aquila, all'Aquila naturalmente. È un gran successo per lei, però è anche uno stimolo in qualche modo, anche se rallentato, ad avere fiducia nella giustizia, così? L'ho sempre detto, lei ha ragione perfettamente, Minoli. Se lei guarda le mie dichiarazioni di questi ultimi 7 anni, dove certo la giustizia non è stata tenerissima, o almeno chi amministra la giustizia non è stata tenerissima nei miei confronti, ho sempre detto che avevo una grande fiducia nei magistrati, perché io ho lavorato con i magistrati in mezzo alla spazzatura in campagna, in mezzo alle macerie, in mezzo alle alluvioni, ho visto come lavorano, in che condizioni e che impegno ci mettono, e quindi sono sempre stato molto infatti tranquillo. Lei l'ha sempre avuta, anche per questo ha rifiutato la prescrizione per il processo della Maddalena, se non sbaglio, no? E anche per il processo dell'Aquila, naturalmente, anche per il processo dell'Aquila. Sono stati zitti di tutti quelli che non più di 2 settimane fa dicevano che io ero un bugiardo e che avrei accettato la prescrizione, che avevo detto che non avrei invece accettato. Ecco qui la sentenza è andata lì a dimostrare che io sono una persona corretta, coerente, dico quello che penso e faccio quello che poi dice. Dico. Ecco, ma senta, una curiosità, trasferire il G8 dalla Maddalena, dove appunto era stato tutto preparato, all'Aquila, è stata una follia o un colpo di genio? Questo lo dovete dire voi. Gianni Letta, recentissimamente, proprio parlando come testimone della difesa nel processo della Maddalena, ha detto che tutti lo considerarono un colpo di genio, ma io lo feci per una semplice ragione, perché non era pensabile che i grandi della terra se ne stessero comodi, spaparanzati al sole in un albergo a 5 stelle lusso, mentre a 200 km in linea d'aria all'Aquila gli abruzzesi stavano ancora in difficoltà, non più sotto le tende, ma comunque in condizioni di grande disagio, con la città semidistrutta. Senta, senta Bertolaso, ma colpo di genio suo o di Berlusconi? Ma diciamo che è stata una joint venture. Senta, in quel momento lei era il capo della protezione civile, era un eroe per tutti, poi è rotolato nella polvere, però se lo aspettava. Senta cosa mi diceva in un faccia a faccia del gennaio del 2010. Lei in passato lo ha ammesso, di essersi mosso sul filo della legalità. Certo, mi sono pure beccato un bel avviso di garanzia quando mi sono dovuto occupare dell'emergenza rifiuti in Campania. Alla fine una delle mie più strette collaboratrici è stata pure sottoposta agli arresti domiciliari. A me mi è arrivato un avviso di garanzia, come anche a prefetti ed altri personaggi dello Stato. Quindi il rischio c'è? Certo, ma io dissi in quell'occasione, siccome fra l'altro sono medico, se io trovo una persona che è stata investita per strada e la trovo lì sanguinante lungo la strada, io la carico sulla la macchina e la porto in ospedale. Se passo col rosso o se oltrepasso i limiti di velocità non mi interessa. E quello era il riferimento all'abuso di potere. Assolutamente. Alla gente, invece, come diceva lei, questo Bertolaso che decide, che comanda, in effetti piace. Perché secondo un sondaggio che ha fatto il TG di Sky, lei è il terzo personaggio del 2009 dopo Obama e dopo il presidente Napolitano. Insomma, che effetto le fa? Mi preoccupa moltissimo. Sì, eh? Certo. L'invidia che circola è tremenda. Una responsabilità enorme, un'invidia e quindi il rischio che qualcuno ti metta in tasca la solita bustina di cocaina. Insomma, in qualche modo quella bustina di cocaina gliel'hanno messa. Beh, ma l'ho messo un quintale di cocaina, no? Questa è la verità. Non mi aspettavo il quintale. Questa cattiveria, questa quintalata sì. di rango, per non dire altro, e tutte queste calunnie, questo astio e questa voglia anche di camuffare la straordinaria operazione che abbiamo fatto all'Aquila certo. come qualcosa che invece sia stato un grande fallimento. Certo. Tutti oggi sentiamo, anche dopo questo terremoto di Amatrice, non tutti, alcuni, che dicono non faremo come all'Aquila. Lo credo, non sareste mai capaci di fare come quello che noi abbiamo fatto all'Aquila. Senta, ma lei quando questa ha capito che poteva finire male? Ma appunto quando ho visto troppo successo, troppo quando successo. Berlusconi disse lo farò ministro e quando appunto tutti quando la protezione civile era diventata il bypass per ogni operazione, insomma, anche mi pare che in questo paese i problemi di colle di bottiglia e difficoltà burocratiche certo, sono enormi, siano pochi. Certo. E quindi noi ci offrivamo per risolvere i problemi, certo non per complicarli e per rallentare quello che doveva essere lo sviluppo. Senta, ma quell'esperienza di potere vista oggi cosa le ha insegnato? Che bisogna essere molto più prudenti, non bisogna fidarsi delle persone come magari ho fatto io, ma che purtroppo era l'unica soluzione al momento per risolvere i problemi in Italia. E ha nostalgia, nostalgia di quel potere? No, assolutamente no. Sono molto contento di lavorare in Africa, di aiutare i bambini, di evitare che le donne muoiano di parto come mosche, come sta succedendo ancora in molti paesi africani. Mi sento molto utile, sì. Ci sono tantissimi problemi e li do una mano a risolverli grazie all'esperienza che ho fatto. Senta, ma che opinione si è fatta del giornalismo italiano? Vi faccio una domanda di riserva. Vuole la domanda di riserva? La domanda di riserva è: lei che ha vissuto sulla sua pelle la tragedia del rapporto tra la realtà e i media, è un rapporto che uccide? Sì, no, sì. È un rapporto che uccide, è un rapporto che distrugge le famiglie, è un rapporto che può dilaniare la vita di persone per bene. Senta, ma a un certo punto, mentre era in Africa a fare il suo mestiere, come stava raccontando, cioè il medico ha accettato di candidarsi come sindaco a Roma. Perché l'ha fatto? L'ho fatto per la mia città, perché è la città più bella del mondo, con la stessa passione, lo stesso impegno con la quale oggi cerco di aiutare i poveri disgraziati dell'Africa. Volevo dare una mano ai poveri concittadini di questa mia città. Ma è stato un errore? È stato un errore? È stato un errore perché purtroppo avevo ancora la gogna di queste due vicende processuali. Sì. Adesso una ce la siamo tolta, quando mi sarò tolta l'altra vediamo cosa succede. Ma la politica in questa esperienza ha pensato che può essere il suo mestiere oppure no? Nel modo più assoluto no. Ho detto e ripetuto anche a Berlusconi, a chi me lo chiedeva, che avrei fatto il candidato per Roma solo perché Roma ha bisogno di un grande tecnico, non certo di un politico. Ecco, a proposito di Roma, la Raggi oggi che sentimento le suscita? Le fa pena, tenerezza, vorrebbe aiutarla? Che cosa pensa? Mi fa rabbia, perché io ho sempre detto in campagna elettorale che era solamente inadeguata per gestire una città così complicata. I fatti purtroppo stanno dimostrando che avevo perfettamente... Ma ce la può fare secondo lei? Ce la può fare se davvero intorno gli mettono un'equipe di tecnici che mi pare lei ancora non abbia trovato. E una mano lei gliela darebbe? Io non sono un uomo per tutte le stagioni, ho fatto il lavoro che ho fatto e adesso credo di essere più utile in Africa. Senta, finito tutto appunto, lei è tornato in Africa a fare il medico e non c'è qualcosa in Italia che vorrebbe ancora fare? Sì, tante cose mi piacerebbe fare, ma la cosa più bella che faccio in Italia è fare il nonno. Grazie, auguri al nonno Bertolaso. Allora, se volete intervenire 800 24 00 24 per le telefonate, 349 238 6666 per gli sms. Nel 2015, per la prima volta, il numero di nuovi nati in Italia è sceso sotto la soglia di 500.000, toccando il minimo storico dalla nascita dello Stato italiano. Rischio di crack demografico, ha commentato il ministro Beatrice Lorenzin. Allora da qui forse l'idea del Fertility Day, una giornata di informazione sulla fertilità promossa dal Ministero della Salute. L'iniziativa ha scatenato però solo polemiche e parodie. Salve, sono Cecilia, del Dipartimento Riparazione Errori del Ministero della Salute. Nessuno di noi voleva offendere chi non può, non vuole o non riesce ad avere figli. Perché una donna, anche se non è mamma, può avere tantissime altre funzioni e utilità. Tipo, lavare la macchina prima di un temporale. Votare sì al referendum costituzionale. Che bello dire sì! Il pericolo della denatalità è però un problema reale nel nostro paese. Secondo i dati Istat, in Italia si registra un tasso di natalità tra i più bassi in Europa. Il numero dei figli in media per donna è di 1,35 e l'età media delle donne che hanno partorito il primo figlio è di 31,6. Dopo aver superato gli ostacoli della fertilità, il calo del desiderio, la gravidanza, il parto, le fatiche neonatali, le famiglie hanno un nuovo problema da risolvere. A chi lasciare i figli mentre si lavora? È un fatto, i posti all'asilo nido sono pochi e si va avanti a liste d'attesa. In Italia i bambini di età compresa tra 0 e 2 anni che usufruiscono di questo servizio comunale sono solo il 13%, con le solite differenze territoriali. Si va dal 4% del sud al 18,5% del centro Italia. I comuni spendono sempre meno per i nidi e nonostante l'aumento delle rette a carico dei genitori, il problema di fondo è la carenza di strutture. Allora, la polemica sul Fertility Day è arrivata fino alle prime pagine del New York Times. Se in Italia si fanno pochi figli, scrive il giornale, il problema non è la mancanza del desiderio di avere bambini, ma è l'assenza di misure significative da parte del governo, di molte aziende in un paese dove la famiglia resta la fonte primaria dell'assistenza all'infanzia. Ecco Mario, cosa ne pensi di questa polemica, furore, lo ha definito il quotidiano americano New York Times? Dunque, la polemica in Italia si è concentrata sui contenuti della campagna, e quindi come sempre ci occupiamo del dettaglio, anzi della cornice, e non guardiamo il quadro. Il quadro è che il calo demografico italiano è pazzesco. Noi siamo il terzo paese più vecchio del mondo, non mi stanco di ricordarlo. Secondo, no? Terzo, insieme a Germania, abbiamo la stessa cosa della Germania, gli stessi dati della Germania più o meno, e il Giappone. E di fronte a questi dati, che sono sostanzialmente il declino di un paese, perché vorrei ricordare che un paese che non fa figli comunque ha un problema proprio di produzione, di ricchezza e così via, e diciamo, la Lorenzin ha provato a comunque ad aprire il dibattito, a sensibilizzare, e secondo me questo è un punto di merito. Sulla forma poi si può discutere, però ripeto, stiamo discutendo della cornice. A mio avviso l'Italia dovrebbe cominciare a cercare di programmare i suoi prossimi 20 o 30 anni, perché qualunque statistica noi guardiamo è chiaro che ci saranno più immigrati, ci saranno meno italiani, ci saranno più stranieri in generale. Naturalmente tutto questo è legato ad un fatto, cioè se il paese ha o meno appeal per chi viene, perché noi in questo momento particolare stiamo assistendo a un fenomeno contrario. Certo, se ne stanno andando dall'Italia. Infatti, senti Pietrangio, qualcuno ha paragonato gli slogan del Fertility Day alla propaganda del ventennio, la battaglia per la crescita demografica. Insomma, siamo tornati lì, numero e potenza. Beh, il numero è effettivamente potenza, sì. E il numero è energia ed è vita, e i figli danno il senso proprio di quello che può essere il futuro. E come diceva prima Mario, e ho notato nell'elenco che ha fatto un dettaglio storico che deve far riflettere, sono messi in fila la Germania, il Giappone e l'Italia, cioè le tre potenze sconfitte nella Seconda Guerra Mondiale, certo, che si ritrovano ad essere adesso il ricettacolo di una vecchiaia sterile. Sì. Il problema della campagna fatta dal Ministero non era appunto nei contenuti, era nella forma. Già il fatto stesso di chiamarlo Fertility Day, sì, è una stupidaggine molto piritolla, sì, è una fuga, una fuga, sì, nel fighettume, che non, sì, fa capire il vero problema, che basterebbe, invece è enorme, basterebbe ascoltare i medici. Certo. I medici saprebbero spiegare una volta per tutte che non si può immaginare di costruire il futuro avendo come idea che l'adolescenza finisca a 40 anni. Certo, infatti. I medici saprebbero parlare di una cosa che fa spavento, che si chiama la condizione attardata, cioè della puerpera attempata, che raggiunge un'età che non è certamente quella dei 50 anni su cui si pensa di poter costruire il futuro. Ecco, su Twitter c'è chi ha scritto: non abbiamo dimenticato come si fanno i bambini, siamo piuttosto però in attesa che il ministro delle finanze ci dica come mantenerli. Ecco, voglio farvi ascoltare una lettera pubblicata dal Corriere della Sera, che ha scatenato un dibattito interessante proprio sul tema di figli e lavoro. Se volete intervenire, 800 24 00 24, le telefonate 349 238 6666 per gli sms. Io, mamma lavoratrice, non ce l'ho fatta. Ci ho provato disperatamente a conciliare le due cose. Ho chiesto orari ridotti, mi sono avvalsa di tate, di aiuti di ogni genere, e per qualche tempo mi sono anche illusa di poter fare tutto. Ma la realtà è che è impossibile. Pur con tutti gli aiuti del mondo, ti ritrovi con il conto in banca prosciugato dagli stipendi alle tate e alle sostitute delle tate, dai folli costi dei nidi e delle attività extrascolastiche, e al contempo devi convivere con enormi sensi di colpa che ti tormentano. Non riesci a recuperarle da scuola tutti i giorni, non riesci a giocare con loro nel pomeriggio perché devi preparare una cena possibilmente sana e devi organizzare la giornata successiva. Non sei abbastanza serena da assicurare loro un sorriso costante e una parola indulgente. Ma i sensi di colpa non sono solo questi. Ti sembra di essere una lavoratrice meno solerte degli altri perché esci prima dallo studio rispetto ai colleghi uomini. Ti sembra di non essere una brava moglie. Ti senti sempre e costantemente sotto pressione. Se è questo quello che volevano le donne quando lottavano per i loro diritti, beh, penso abbiano fallito. Certo, i mariti aiutano, ma il loro apporto è sempre marginale ed il carico fisico ed emotivo è nostro. Questa lettera in un giorno solo ha superato 51.000 condivisioni su Facebook, ha scatenato un vero e proprio dibattito sulla rete. Ecco, lavoro o maternità? Una donna deve scegliere, così, Mario? Oh, che no, dilemma che mi metti, vabbè, non lo so. Chiediamo alle nostre donne in redazione. Non lo so, nel senso che è un lavoro gravoso, pazzesco, ovviamente. Essere mamma è veramente difficile. Però secondo me c'è un problema nella contemporaneità che è grande come una casa. Mia nonna, vedova, il marito Palloe si chiamava, morto da giovane, non l'hanno neanche seppellito quasi. 5 figli, la fame assoluta li ha tirati su tutti da sola. Tu, Pietrangelo, che dici? Lavoro o maternità? Bisogna scegliere o no? Direi stato sociale, nel senso che questa è una società dove i dirigenti d'azienda, i responsabili, si permettono il lusso di non assumere o di licenziare le donne quando già sospettano la possibilità che possano fare figli o vogliono fare figli. Si chiama quindi dare garanzie, perché qui la storia ci soccorre nella memoria. Proletari sono proprio perché avevano soltanto la prole come possesso. Adesso viene negata perfino la possibilità di avere figli. Comunque in Italia tra il 20 e il 25% delle donne abbandona il lavoro dopo la prima maternità. Giuseppe De Rita, che è presidente del Censis. Facciamo un passo indietro. C'è stata molta polemica, ne abbiamo parlato, sulla campagna del Fertility Day. Presidente, lei che ne pensa? Il problema problema delle nascite, della fertilità, non è un problema da campagna, detto brutalmente. Quindi era sbagliata. Perché la campagna è un grande evento, una grande mobilitazione, grande pubblicità, grandi messaggi, grandi slogan. La campagna è fatta in quella maniera. La fertilità deriva da altre cose più profonde, più intime, più legate a una conoscenza, una coscienza di se stessi sul piano sessuale, ma anche sul piano affettivo, sul piano del destino personale. E quindi è stata sbagliata sostanzialmente. Sbagliata non in termini tecnici, ma proprio in termini di valutazione dello strumento. Senta, da una parte però di fatto si dice che bisogna fare più figli, dall'altra una volta fatti non si sa dove metterli perché non ci sono asili nido, insomma una situazione con uno sbocco difficile da definire. Ma il problema è che, come credo di aver detto prima, la fertilità, la maternità, la paternità, il fare figli è un meccanismo complesso, non soltanto sociologico e economico. Non ci sono gli asili nido, non ci sono soldi, le coppie si sentono in difficoltà economica, ma è un fatto molto più profondo, molto più di identità della donna, di identità dell'uomo, di identità della coppia, di identità della concezione. Quindi lei dice gli asili nido che mancano incidano, ma mica tanto. Secondo me incidono poco. Insomma, sì, sono naturalmente un buon alibi, se uno dice perché non fai figli perché non ci sono asili nido, ma è probabile che non sia così vero. Senta, secondo uno dei vostri ultimi studi, assistiamo, dite voi, all'eclissi dei giovani in un paese di patriarchi di massa. Cosa vuol dire esattamente? Nel senso che un po' tutti i nostri vecchi sono un po' patriarchi, nel senso che se uno va in giro anche per la domenica per i mercatini, vede gli anziani che comprano cose antiche, che rimettono, che mettono in casa oggetti che fanno parte della loro storia, non certo dei loro figli, che amano o vanno a rivedere o chiedono o comprano per vedere il film degli anni 60. Sì. C'è questa dimensione degli anziani di essere così bravi o così stati così fortunati nell'aver avuto il meglio, certo, nella loro storia, che alla fine vogliono perpetuarlo ma se ne fregano di quello che viene dopo. E quindi lì c'è l'eclissi dei giovani, in questo senso. Ecco, però l'ultimo libro di Aldo Cazzullo dice le donne erediteranno la terra. Le donne erediteranno la terra, però tra il 20-25% delle donne italiane, per esempio, escono dal lavoro quando fanno un figlio e non tornano più. Quindi erediteranno la terra, ma non si capisce come. Guardi, il libro di Cazzullo è molto bello da questo punto di vista e fa un pochettino pensare, perché io ho letto recentemente l'ultimo libro di Calasso, Il cacciatore celeste, il quale tutto sommato nel capitolo più destinato all'evoluzione antropologica degli ultimi non millenni ma milioni di anni probabilmente, cita una vecchia novella di Henry James, cioè di uno del fine 800, cioè un vecchio signore che ha avuto tutto dalla vita, che si fa l'angoletto, la propria libreria, la propria finestra, tutto a posto e tutto contento perché la moglie rompì le scatole e se n'era andata. A un certo punto lui, che ormai aveva raggiunto la padronanza totale del sistema, vede ritornare la moglie, che non è più rompiscatole, ma invece è dolce, tranquilla come lui. Alla fine gli prende la poltrona, gli prende la stanza, gli prende la finestra, e a un certo punto il marito se ne deve andare in un'altra casa ed è sostituito. Ecco, l'idea di Calasso non è molto lontana diversa da quella di Cazzullo. Cazzullo la fa in modo giornalistica, sull'oggi, con citazioni di lettere particolari. Ma è questa idea che forse noi maschietti siamo destinati ad essere sostituiti come genere. Viene da lontano. Insomma, si incarna in molte. Bisogna leggere Cazzullo e Calasso insieme. Ecco, sono due persone diverse, ma insomma sono. Ecco, in una società però che ha sempre meno giovani e sempre più anziani, che natura avranno i rapporti tra le generazioni? Cioè, siamo arrivati allo scontro vero, profondo tra le generazioni? Ma io direi di no. Io ho fatto una prefazione al libro di Intini su questo argomento e Intini era molto convinto che la lotta di classe verrà sostituita dalla lotta fra generazionale. Io gli ho scritto e gli ho detto che invece non è vero, che la lotta di, che la lotta fra generazioni non è una lotta di classe. È più probabile avremo una lotta più sorda, più furba, più di movimento, quelle lotte da posizione, quelle lotte da posizione fra maschi e femmine. Proprio ritornando al tema di prima, ecco un'ultima cosa, professore, in questo ultimo vostro lavoro si tratta anche molto del tema della solitudine, ma che è una solitudine che riguarda più in definitiva i giovani o gli anziani? La solitudine ha un senso. Se mi lasci dire una frase che forse non si capisce del tutto, se chez soi. Chez soi significa essere con se stessi, dimorare in se stessi, vivere tranquillamente la propria vita, stare con se stessi, avere una dimora. Come dice Levinas nei suoi inediti, la formazione di una persona, l'identità di una persona deriva dalla capacità di essere chez soi, di essere presso se stessi. Quindi è come un valore. È un grande valore. Questo grande valore gli anziani ce l'hanno, perché sperimentano nel chez soi la propria storia, la storia del mondo, la storia delle tensioni, il ricordo della guerra, eccetera, eccetera. Il giovane chez soi che fa? Certo. La cannabis o la birra per certi versi, e quindi la solitudine del giovane è molto più drammatica della solitudine dell'anziano, perché non ha questa specie di ritorno, di ripostiglio da cui prendere qualcosa, la dimora della memoria, che è il chez soi, e il giovane non ce l'ha. Ma Derrida costringe sempre a riflettere. Sì, bellissimo. Molto, molto bello, Pietrangelo dice. Sì, mi ha ricordato quel verso meraviglioso di Hölderlin su poeticamente abita l'uomo, e l'uomo costruisce la propria poesia proprio in se stessi, che poi è la sfida più complicata, la guerra più difficile, quella di fare contro se stessi, quando arriva l'angoscia della solitudine. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS pubblicità. Mix 24. Marco da Firenze, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, io sono pienamente d'accordo con, presumo sia stato il professor Derrida che ha dato una spiegazione stupenda di tutto quello, è quello esattamente penso. Io ho 54 anni, sarò velocissimo, ho due figlie, e per avere le figlie, tornassi indietro, vorrei rifare la stessa vita, ho rinunciato a tante cose. Non è un problema solamente di asili nido o di mancanza di strutture, anche la voglia di avere figli. E tanti ragazzi oggi rinunciare al calcetto, rinunciare a divertimenti è difficile, perché vuol dire fare sacrifici. E per quanto riguarda, e qui chiudo, la campagna della Lorenzin, per me è stata sbagliata la comunicazione, ma quantomeno ha il merito di aver aperto un dibattito. Spero che vada avanti e possa proseguire e avere qualcosa di costruttivo. Grazie Marco, auguri anche per il suo ottimismo. Alessandra da Milano. Sì, buongiorno. Buongiorno. Io ho una visione totalmente opposta. La campagna del Fertility Day è vero che era sbagliata nella forma, ma la forma è molto importante, perché non si può ridurre. Lei che cosa fa, signora? Io sono un'imprenditrice, ho due figli, ho 47 anni, con estrema fatica mi barca meno, ma nella mia esperienza personale vedo delle mie dipendenti, prevalentemente donne, che quando devono dire che si sposano piangono, perché hanno paura di perdere il lavoro, soprattutto quelle che vivono fuori dalla città natale, per cui hanno ulteriori difficoltà non avendo minimamente una famiglia di sostegno alle spalle. Secondo me il ministero ha fortemente sbagliato riducendo a questo, e anche l'intervento del precedente ascoltatore che dice rinunciate al calcetto, rinunciano veramente a molto di più del calcetto, ma non ce la si fa, quindi o veramente lo Stato in qualche modo aiuta anche le aziende ad aiutare i propri dipendenti, perché essendoci passata io, perché prima ero dipendente, poi mi sono messa in proprio, so cosa vuol dire fare i salti tra riunioni scolastiche, portare i bambini, comunque soddisfare un cliente. E quindi il suo consiglio? Eh no, il consiglio è che lo Stato deve intervenire dando con un concreto welfare che aiuti le famiglie e magari anche aiutando gli uomini a comprendere che oramai o si fa 50-50 in casa o la famiglia Beh, non Beh, quello non credo che sia lo Stato che deve aiutare a comprendere, questo è una maturazione della cultura. No, mica tanto, perché è vero che è questione di cultura, ma un incentivo alla comprensione. Passano, ma i messaggi che si passano tutti i giorni continuamente sono quelli che la madre deve fare di più e purtroppo non è più possibile, non è certo che non vogliamo, che no. ma non ce la facciamo. Io vorrei poterlo essere capace, ma non sono Wonder Woman. Va bene, grazie signora Alessandra. 800 24 00 24 per le telefonate, 349-238-6666, gli sms. Pietrangelo, cosa ci fai ascoltare? Arriva. You've got a habit of using people. You get what you want, no matter what the cost. You've got a habit of using people. Allora le abitudini, le cattive abitudini amorose si rompono le stringhe, saltellano bolle, cuori, diagrammi e schemi che si disperdono tra sorrisi e freccetti. C'erano oggi in metropolitana un matematico e una matematica. Ha chiamato Clarabella, che era la matematica, e ha voluto questa canzone per gli uomini impossibili. Oggi Valentina non c'è, Mario, stiamo tranquilli. Sono un po' sorpreso, l'avranno rotto. C'è sempre. Non hai rotto. E che non ha chiamato Sancho Panza. Ah, ecco. Ma devi rompere. Vai Mario, con la tua bolla, vediamo cosa bolle nella tua pentola. Bad day dei Rem. In effetti non è una buona giornata per il ministro dell'economia Piercarlo Padoan. Un disastro, mi sembra, né per il premier Renzi. Ma dunque, guarda, sarò brevissimo perché voglio in realtà sentire più voi che dire cose io. Il DEF è stato giudicato da Banca Italia, dall'Ufficio parlamentare di bilancio e dalla Corte dei Conti irrealistico per quanto riguarda la crescita. Troppo ottimistico è stato definito. Obiettivo ambizioso, ha detto la Banca Italia. Sì. Con un eufemismo. Sì, è anche un filo di ironia, sì, secondo me. Io avevo già avuto dei sospetti da povero cronista di Palazzo quando sul DEF ho letto che gli effetti della Brexit erano già presenti. Ora, non sono presenti ancora per gli inglesi, ma miracolisticamente erano presenti per l'Italia. Però voglio capire qual è la tua sensazione, Giovanni. Su questo e anche di La mia sensazione è che l'avevo avuto già ieri quando abbiamo parlato con Boccia, sì, che mi sembrava che l'aria fosse un'aria pesante. Molto pesante per il DEF. Adesso mi sembra che le cose stiano venendo fuori, vedremo cosa dirà il ministro Padoan nella sua replica oggi, però le critiche dell'Ufficio parlamentare di bilancio mi sembrano molto sì, dure. Sì. Pietrangelo? Beh, io invece adesso lo so che tu non vuoi parlare di cose economiche, però io ti stimolo a farlo. Ne voglio parlare perché c'è una cosa che vorrei sapere. C'è stato un editoriale di Ferruccio De Bortoli, interessantissimo, molto chiaro, che ancora non ha avuto smentita su un SMS di Carrai. Io credo che purtroppo la politica e l'economia in Italia siano intrecciati attraverso i giochini della comitiva di Palazzo Chigi. Una volta c'era la Merchant Bank a Palazzo Chigi, oggi, adesso c'è solo sta comitiva del muretto. Il muretto che è la via Bal. Cioè, vai col tuo salamino, Pietrangelo. Oggi è festa, è il 4 ottobre e il poeta soldato Gabriele D'Annunzio forgia una definizione che Pio XII nel 1939 fa propria, proclamando patrono d'Italia Francesco d'Assisi. Ed è questa la definizione: il più italiano dei santi, il più santo degli italiani. Festa! Fate Francesco una volta per un tremale. Oggi dunque ad Assisi e ovunque sia arrivata la lauda del poverello da lui gemmano tra i tanti, oltretutto ricordiamolo, gemmano tra i tanti due santi cari al popolo, ovvero Sant'Antonino di Padova e Padre Pio, che furono combattenti, lo sono ancora, combattenti altrettanto invincibili nel mondo questo e anche nell'altro, armati di saio e di preghiera. E tutto ciò che ha cantato ieri San Francesco, Giovanni, Mario, torna oggi. Perché, guardate, nella natura cantò e quindi c'è la questione dell'ambiente. Cantò nella carità ed è un argomento sull'economia. E così nel mutuo soccorso e dunque nella politica. Laddove con padre Barnaba Manassei nel 1462 istituiva il monte frumentario affinché il lavoro non abbia a soccombere davanti all'aggressione del denaro, ed è quella dell'usura che solo un poeta, Ezra Pound, seppe fronteggiare coi suoi cantos, quando dice: ciò che veramente ami rimane, il resto è scorie. La parola che racchiude tutto è fraternità, e lo ha scritto oggi sul Corriere della Sera padre Enzo Fortunato. Adesso andremo tutti a vedere un film di Elio Germano. Però fa testo un insegnamento: amare è più importante dell'essere amati. E io vi saluto con la bellissima canzone di Celentano e Don Bachi nel Monaco di Monza. Due fraticelli soli siamo in giro per il mondo, chiediamo solo un po'. Che adorabile ragazzo, fantastico. Questo butta fuori. Solo vorrei ricordarti una cosa, Pietrangelo. Ho letto che non l'hanno voluto alla Rai, non ti hanno voluto alla Rai. Oggi ho letto un pezzo. No, non l'ho visto. Ho visto un pezzo. Che... No, io non l'ho visto. Vabbè, dopo te lo segnalo. No, volevo dire che Pietrangelo è un adorabile ragazzo, però io sono entrato in fase Gordon Gekko. Quando ho sentito la parola usura, da Wall Street, Gordon mi ha detto: vuoi ricordare a buttafuoco che siamo nell'era dei tassi negativi? E allora andiamo con l'ultima bolla. Andiamo con l'ultima bolla. I'm trying to put you in the worst mood. Be one cleaner than your church shoes. Questo è The Weeknd, che poi è un, diciamo, un rifacimento di un pezzo di Daft Punk molto bello. Sentiamo un po'. Oh, allora, Giovanni, non vogliono Trump alla Casa Bianca, ma proprio no, non lo vogliono vedere. Allora, no. Al vecchio Bush, che voterebbe per Hillary, secondo quanto l'ha rivelato, detto, sì, secondo quanto rivelato da una esponente dei democratici, si aggiunge l'ex capo, che è un repubblicano, della commissione d'inchiesta sul caso Whitewater, che riguardava l'ex presidente Bill Clinton. E allora, soprattutto riguardava la moglie. Allora in carica, i due insieme. Allora, la cosa è singolare perché ha annunciato Chertoff che voterà per la Clinton. Abbiamo l'inquisitore che sceglie. Cioè, Scilipoti non è solo l'Italia, mi pare che... Lo devo dire. No, il parossismo. Guarda, io non so chi vincerà, probabilmente sarà confermata la Clinton, non ho idea. Però è un'elezione molto divertente. Il lapsus di Mario l'hai notato, sarà confermata la Clinton. Se ne deduce che già sta comandando. No, perché tutti pensano, che sia lei. Io ho qualche dubbio, secondo me la partita... Io dico aperta. Che è aperta la partita, sì, pubblicità. Sì. Mix 24. Il 14 settembre del 2006, 10 anni fa, muore a Firenze Oriana Fallaci. Giornalista e inviata di fama internazionale, autrice di libri tradotti in tutto il mondo, la Fallaci ha dedicato gran parte della vita al giornalismo di guerra. Ma la guerra mi ha sempre interessato, è vero, perché io sono nata nella guerra, sono cresciuta, anzi, non nata, ma cresciuta nella guerra. E da grande ho cercato di tornarci, di rivederla, per capirla meglio. L'esordio nel 58 con I sette peccati di Hollywood, cronaca segreta delle star, e nel 61 Il sesso inutile, reportage dall'Oriente sulla condizione femminile, che diventa primo successo della Fallaci scrittrice. Poi il 68, il Vietnam, la rabbia dei neri d'America, le proteste degli studenti in Messico, le ferite, la Grecia e il grande amore, Aleko Spanagoulis. Da una serie di incontri coi potenti nasce Intervista con la storia. Nel 92, famosa in tutto il mondo, la Fallaci torna ancora al fronte per la prima guerra del Golfo. Dopo gli attentati dell'11 settembre scrive La rabbia e l'orgoglio, requisitoria contro l'Islam che indigna da un lato ed esalta dall'altro. E infine ci sono la malattia e la sua ultima intervista a se stessa. E che pur conoscendola bene, la morte io non la capisco. Capisco soltanto che fa parte della vita e che senza lo spreco che chiamo morte non ci sarebbe la vita. Dopo il giornale radio, per i gialli della storia, la storia di Oriana Fallaci. Mario, una bolla veloce ancora? Sì, rapidissimo, ti do un aggiornamento sulla borsa inglese che è interessante da seguire. L'indice FTSE 100 è al massimo da giugno 2015, ha superato i 7.000 punti. A proposito del discorso del DEF. E la sterlina però è al minimo dei 31 anni, che c'è pure una logica in tutto questo, se vogliamo. Quindi il mercato ha buone aspettative, la moneta si sconta subito perché pensa che la Brexit in realtà abbia un impatto forte. Vedremo. Qua siamo in una terra incognita. È il nuovo che avanza. E intanto adesso col professor Berdabei commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina. Le frontiere della ricerca. JAMA, luglio 2016. Paracetamolo contro ibuprofene nei bambini con asma. In questo lavoro si è studiata un'ipotesi figlia di alcuni studi, peraltro non particolarmente rigorosi, ma che avevano un po' inquietato, cioè che l'acetaminofene, il paracetamolo, che è il farmaco più usato nei bambini ed è quello che ci aiuta moltissimo nel combattere le comuni febbre dell'infanzia, fosse responsabile di una complicazione importante come l'asma. E allora cosa hanno fatto i ricercatori? Hanno preso 300 bambini dai 12 ai 60 mesi con asma e nel momento in cui avessero avuto una crisi febbrile gli veniva dato o il paracetamolo, l'acetaminofene o l'ibuprofene, che è un antiflogistico non steroideo che non aveva dato i problemi di asma e che quindi veniva ritenuto il paragone, il termine di controllo. E allora si vedeva se nei due gruppi ci fosse una riaccensione maggiore in quello con il paracetamolo o in quello con l'ibuprofene di asma, una riaccensione di asma, oppure si dovessero fare utilizzo di cortisonici proprio per combattere una eventuale complicazione asmatica. Questo è stato uno studio negativo, nel senso che non si sono viste differenze nei due gruppi, e questo rassicura, perché ci dice che non c'è, rispetto all'ibuprofene, che è una specie di golden standard, un farmaco sicuro rispetto alle riaccensioni asmatiche o al causare asma, anche il paracetamolo si comportava in modo analogo in pazienti certamente molto a rischio e che quindi possiamo stare tranquilli nel somministrarlo ai nostri bimbi perché non provoca complicanze asmatiche. E per chiudere, Gloria Guerrera cosa ci propone? Oggi una canzone per chi, facendo il lungo elenco di ciò che non possiede, orologi, camicie bianche, pranzi di lavoro e segreti in banca, trova ciò che ha, ovvero il tempo per amore. Fabrizio De André, Quello che non ho. Che non mi manca, quello che non ho, sono le tue parole per guadagnarmi il cielo, per conquistarmi il sole. Quello che non ho è un orologio avanti per correre più in fretta e avervi più distanti. Quello che non ho è un treno arrugginito che mi riporti indietro da dove son partito.